visto mia madre. Ma se no, ma guarda che dai qua me lo metto io, non c'è problema. Si è abbigliato. Scappa. Tieni in vendita. Diciamo che no, io ho provato, poi gli ho regalato lì da cazzo le cose, adesso è bello quel bracciale, è un signor bracciale, cazzo, mi metto a vendermelo, ce n'è un altro, certo non glielo do, questo è garantito. Paga. Se tu invece che usarla e usi il Mac della Tector, mi rilassano degli tuffi, ui. Adesso sto aspettando questa persona che me lo deve dare, capito? Ma l'ha promesso, mi ha detto che me lo portava la prossima settimana, e così quando inizio sperando a fine mese di iniziare la notte, speriamo che si riuscirà a farmi cambiare turno. Mi porto quella roba lì in macchina e la notte vado a cerca di soldi e quella roba là, hai capito? Sì, la notte, ragazzi, perché dobbiamo avere una palettina come suona a scavare. Poi una volta stavo andando di notte a pescare e ho trovato di sera verso le 7:30 così questa coppia di anziani con questo metal detector nella spiaggia cercando. E fa cosa, avete preso qualcosa? Dice no, noi cerchiamo quello che poi lo vogliamo, che qui ce lo vendiamo. Fanno bene, cazzo, già. E cosa vuoi? Hai tipi di luci, cazzo. Caro Venezia, figurati. I due genovesi erano, basta di chissi. Cazzo, per carità. Riprendi già tu, vice sindaco di Ploaghe, amici. Eia, me l'ho ripresa, E si è preso con... Stavo guardando sto cacciavizzino un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora vediamo se così ha migliorato qualche cosa. Mi sembra molto più chiara già la modulazione, è vero così? Cappa. Sicuro? Ehi, ha permesso tutti gli altri. Guarda porco, come vi arrivo? Di modulazione, così, aspetta un attimo il fischio che guarda un po'. Ma così piace un uomo, dai. No, non c'è più la... non è più cupa adesso. È schiarita la modulazione. Ah, ecco, guarda, devo aspettare se lavora bene con l'ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Dai. Sembra che vale meglio. Ma c'è il troppo di E. No, ho capito. Già, dimmi. Ma detto, è troppo ripetitivo. Che lo so. So che cazzo, c'è un rientro dell'eco dentro l'apparecchio, è un casino, perché quando sono per Mike Green, adesso domani devo comprare lo GB più 481, io quello non trovo e più lasciamo dentro questo baracchino per forza. Non c'è altro metodo, perché con la camera eco fa questo difetto. Invece non trovo neanche questo difetto, non lo fa. Apparecchi a parte devi mettere il GB più 481, ma lo ricordo, è affusato. L'unico c'era lui, e lo prendeva lui, nell'RB4 bisogna che prendo pure quello A1, per trovare la ricezione esterna, perché così com'è, quando si riesce l'ecco, quando c'è, devi mettere le macchine avanti, se non fa un capito. C'è che apparecchio devi mettere sto lì? Nel 548 SX, quello che sto usando adesso. Ok, guarda, se picchiava così lo lascio così, così sembra che stiamo lavorando bene. Adesso ma che chi la metta, adesso la mavettone, ma che 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sembra che c'è la bit più alti. Sembra che siamo andati bene adesso. Va bene. Ah, che cosa che stai fatto, esce ancora meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confermi, chiara? Non c'ha l'effetto. Sto battendo in scala. Adesso no però. sì. Ripeto. E io qua, no, io prevedo un attimo, non mi sa molto, per non ho detto, ma è che dobbiamo fare una cosetta. Ciao Alessio, ciao Gianni, ciao Lucarello, e ciao la carotana Madrigionella di Diretto, e da parte tu muro, ciao. A te ci vuole tanti bacioni da Paoletto, Falcone, che fa? E io, ciao. Ciao, Gerpa, ci sentiamo le prossime. Dopo Giuseppe faccio salutare al sindaco di Civita Vecchia. Cosa vuoi? Qui c'è il sindaco di Blaghe, cosa vuoi? Ho detto che dopo deve venire il sindaco di Civita Vecchia qua, il caffè. Dopo ti faccio salutare da lui quando viene. Io non ci venga un sindaco di Blaghe. No, ti faccio metà, si cerca tutta quanta la casa, a sorella. Io ce la faccio cadere dalla scala. Vado di giusto. Oi, oi. Dai, con l'attimo, dai, che già stiamo volando qua. Ci stiamo fra pochi minuti. Ma Grodino non è stato stasera. Ciao. Grodino. Si è fatto buon freddo, non lo so, no. Eh? E dove è entrata, che doveva fare il piano su quella situazione là? Boh, no, non so cosa dirti già. Come, ma sabato sera che cosa è successo? Antonio. Tutti i muti, proprio. Gaffa. Ma il microfono è? Io non ho capito che microfono sia. Qua no? Io stavo usando pompone. Non ho capito manco io. Praticamente ho messo un campus particolare, non lo so, l'ho costruito forse. Ah, gaffa. Gli esperimenti di Alessio. Ci sarà un dettaglio sicuramente con campus di Reo, se la fragaffa. E gli altri li fanno tutti quegli esperimenti, altri li ho fatti io, li ho fatti tu, li ho fatti anche, li ho fatti portare. Si guarda se per la cazzo che va meglio, si mette. Fragaffa. E vabbè, non ci vuole niente a fare con l'esperimento. Beh, ma puoi migliorare, Sì, quello sì, è verissimo. Soprattutto quando si fanno certe modifiche, si cambia da giorno alla notte molte volte. Vero, vero. Ma non sei lavorato, no? No, sono in fede. No. Io devo attendere ancora, E vabbè, dopo che non vedete non ve la giuria, abbi pazienza. Ma non ce l'ho o non ce l'ho io? Già lo so. Un po' per una che fa l'allaccio, ti direi che si con la già io sono contento così. Anche io sono contento perché in fine mi sto divertendo, sono andato a pescare, mi sto andando al mare. Insomma, non sto male, dai. Adesso ci andiamo fuori, faccio un giro e poi torniamo a lavorare. Catta che ci copa! Ah, vero già! Perché? Perché catta ci copa? Se non è entrato vuol dire che si sente in colpa, non ho capito. No, parla te che con me stasera, no, non c'è problema. Non c'è problema con te. E invece ci è rimasto male dopo che gli ho risposto io ieri, che era con Alessio. E gli ho fatto un piccolo discorsetto che lui non è né nessuno a prendere per il culo e basta. Dunque, punto e basta. E non voglio aggiungere altro. Ma come si è scusato perché ha avuto un guasto alla macchina, è brutto venire, tutto lì. E vabbè, già lo sappiamo noi già il discorso, là. Già ne abbiamo parlato anche stasera. No, hai capito? A me, tu lo sai che a me la gente che fa quella cosa là, io la tronco subito i viveri, hai capito, no? Guarda. E vedi tra pomori, domani è un altro giro, è un'altra corsa, hai capito già? Beh, io siamo lì che stasera mi sta ascoltando, ma lì c'era la mia colipata un bel forte, nel senso che era proprio umida, un bel... quando accendo io a casa, che a volte non ce n'è bisogno adesso, che c'è vento, si dovrebbe riuscire a dormire meglio stanotte, speriamo. Ma io non le accendo di notte, il giorno se c'è caldo sì, ma di notte, vabbè, devi mettere che vabbè, puoi mettere anche il trimmer, Popolino, ci sei? Ah. Proviamo a passare un FM. Sì, Tony, hai. Sì, ascoltato, ma non ci ha mai parlato, detto ciao, ciao. Ciao. Oh, lui. Mi senti anche a te. A forza loro, riescono meglio a sentirlo. Comunque, che direzione Sassari? E io quanto ti arrivo? Come mi senti? Ah, ma che sei come? Non se ne frega. stato male in FM. Ma devi dire che sono in luce, perché tu sei dai, dai. Guarda, ma una tonalità molto diversa, allora vedi, è giusto. È giusto. Là c'è Antonelli, però Antonella, vai in AM. Conquistato, ma non ho capito, ma io ho una ragazza. No, io no, Ottieri no. Però ci sono belle donne a Ottieri, Gianni. Io ci vado spesso a Ottieri per lavoro e ti dico che ci sono delle belle ragazze a Ottieri. Io avevo un'amica che lavorava alla banca di Sassia, le abuso, e andavo con questo amico mio, solo che mi facevo lasciare Ottieri e lui proseguiva. Andavo a trovare la ragazza e io avevo conosciuto due tipe, vabbè, e una diventata la mia ragazza, andavo una volta alla settimana. Deve fare una televisione, è vero, eh? Faccio? Fai la televisione, c'è la televisione davanti al garage, è vero, eh? C'è la televisione davanti al garage, no? Capito? E lui dice che si puglia in chili. Ah, ma no! E io ci stavo più preso, non è stato l'avvolgibile. Comunque, Bombo, le faccio pagare il biglietto, eh? No, qua il biglietto costa anche caro. Fai grappa. Ma Bombo lo usa anche la scala, me. C'è molto in alto. E la porra di magari di chiudere si da bene. Non lo so, ma un po' nell'angolo c'è, un po' nell'angolo c'è, sai. Insomma, mi ascolti ancora? E addirittura, addirittura. Ma mi ascolti, Antonella? Ho detto, mi ascolti a me. Ecco perché ci troviamo su strada sicuramente. io devo andare a Macchiari, devo andare su quella zona lì, allora devo appena andare verso Pula, vado a caricare il sale, io lì, ci sono le saline, le cose per lì che devo andare a caricare dopo. Cappa, io vado verso le 8, parto a Sassari. Ma tu partendo alle 8, io le 6, no aspetta, le 6 e mezza sto partendo dai Pirin, le 6 e mezza, le 7 ne so già la 131, ma se non mi prendi tu, stata giusta, no aspetta io poi la... Perché non truppi? Vedi che speriamo, no, vedremo le chiusa per il porto e Cagliari per via Roma e ti consigli tutto sulla destra e tu lì vai sempre, ti lasci via Roma, poi qualche giorno hai fatto una passeggiata via Roma, è nostro, è bello anche lì via Roma, sta del piazza Iena, è bello lì. E cazzo. Poi vabbè, due giorni ci devo stare, là. Vediamo un po' come organizzarci. Era per vederla con la gola. Mia moglie ce l'ha per poco, ma io sono da me che non ci vado. E mia moglie l'ha fatta per lavoro da poco. Però è una bella zona, mi hanno detto, e ci voglio andare. L'oristanese l'ho visto, sono stato a Torre Grande, da quella zona lì, poi c'ho degli amici di Luracchi e mi hanno portato in giro un po' per tutto quanto l'oristanese. Là. E lì c'hanno anche la caccia, infatti ci hanno evitato l'andare quest'estate, ma come fai? A me mi piace girare, non mi piace stare fermo in un posto. Comunque sai così come sto dicendo, qua non essere da Rachia che devi andare per dirti quella cosa, l'altra cosa. A fianchi tu ti butti su, sempre sulla destra e continui, su vai su in alto, poi a un certo punto direi a sinistra, che se no se vai dritto ti porta a Caramosca dove si faceva la pista militare, invece gira a sinistra e te riprendi subito nuovamente a destra. A sinistra, subito a destra e vai giù in fondo, poi ti fai tutto il poetto, è lungo male del poetto e ti porta la rotatoria di corso di come si chiama per Villasimino. Poi rientrando non c'è bisogno, l'ho fatta, ce l'ha chiusi io, no, della fretta, ce l'ha chiusi lì, c'è la 554, le 4 corsie e ti fai quella lì. Ti fai quella lì e ti porta direttamente fuori per uscire per la 131. Ciao, e vabbè, c'è anche il tonton che mi aiuta, non è che sia del tutto sprovvisto, c'è anche il tonton e mi dà una mano. Avanti, anche devi girarti in noi, bomba, cioè no, se riesci a capirlo, lo capisci, se no cominciano, c'è un cartello umano, devi andare là, cioè fanno, capito? No, ti mando dall'altra parte, quando vuoi andare alla costa mi avevano mandato da un'altra parte e l'ho chiesto a un anziano, non avevo preso un cacchio, mi sono mandato da un'altra parte, ma com'è cominciato a cambiare, no, mi ha bailato un frasco e sono ritornato indietro, infatti era sulla strada. Ma se mi trovi lì a Cagliari e dintorni di Cagliari o mi chiedono qualcosa in qualche paese del cagliaritano, stai tranquillo, se stanno cercando qualche rivendita, qualche negozio, che io glielo so dedicare al 100%. Scappa. No, però se tu chiedi a loro un'indicazione, comincia a farti quelle spiegazioni in mezzo in cagliaritano, mezzo in sardo, in cagliaritano, in italiano, cioè mischiano tutto, perché mi è capitato a me e poi è capitato da poco con un'altra persona. È differente, a me molti mi parlano proprio in cagliaritano, in dialetto loro, ma a me è differente perché tanto lo capisco perfettamente, no? Mi è differente a me, ormai sono abituato, capito, e ho tanti amici lì, se dico la verità io ho molti, molti, molti amici, ne parlano male dei cagliaritani, però io ne ho un sacco, c'ho un sacco di amici, un'infinità di amici io lì a Cagliari, tutti i paesi del cagliaritano. Guarda, non è vero niente, io ci sono stato a Cagliari, lui, ma stavo veramente persone in gamba, proprio alla mano. Io stavo aspettando l'autobus su Drago mentre chiamiamo noi, poi ci sono lì, su quell'elettrico. Ho fatto subito amicizia con questo qua, ha preso, mi ha dato un passaggio, mi ha accompagnato come si chiama, a prendermi il treno. Ti puoi immaginare che persona in gamba che era? Positiva, no? A me sempre, dico la verità, mi hanno sempre offerto a bere, a mangiare tranquillamente lì, sempre, sono stati sempre ospitali, io a volte rimanevo, c'era la che portavano a mangiare da una mesa, andavo a caricare il ranespaio un posto lì, no, erano 7-8 e portavano a mangiare da una mesa. c'è da mangiare, li vediamo per tutti. Buonasera signori, persone, poi anche mi sono sempre, cioè la volta che sono andato e cosa mi sono trovato benissimo, proprio persone in gamba, cioè secondo me molte volte si apre la bocca per invidia a dire che sono quelle boom bam, no? Sono tutte bugie, perché io tutte le volte che una volta sola che sono andato a Cagliari e poi ho parlato con cagliaritani e mi sono trovato sempre bene. Avanti già. Io penso che tutto il mondo sia paese. Ma intanto Sandro un attimino, mandiamo avanti a Sandro che forse stava parlando Antonio e non avete ascoltato. Avanti Sandro, vieni avanti, per chi vuoi. E qua c'è Antonio e Gianni Doppiolo, siamo voi tre mi pare, c'è l'Antonio non c'è più. Avanti per chi vuoi Sandro. Ehi capo, buonasera signori. Ciao Gianni, ciao. Adesso mi sono dimenticato anche la... Aspetta, c'è qualcosa che non funge qua. Buonasera intanto Alessandro, mi hai sentito? Capo. Antonio Rutini. Marzullo. Adesso è successo. Luigi. Mi va a spiegare la finestra che l'ho chiusa prima. No. Ok. No, c'avevo un falso contatto, tutto lì. Comunque buonasera nuovamente a tutti quanti. Gigino, una piccola informazione. Tu che sei nel campo e sei... il, come si può dire, il manager della strada dei mezzi. Dimmi cosa vuoi sapere, se ti posso aiutare. Allora, parliamo di Scania, conosci benissimo lo Scania. Mi sai dire, hai presente il manometro dell'aria? Di solito quanto dovrebbe rimanere? Questo deve salire al massimo. Al massimo facciamo scattare intorno quasi 9 e mezzo atmosfere, l'aria, la facciamo scattare la valvola. Certo, no, ti spiego. Si è staccata la spina. No, c'ho qualche falso contatto nel cavo alimentazione. Allora ti spiego tutto, su questo Scania il manometro scende a fondo scala e calcola che camminando quasi ogni 100-150 metri in effetti la valvola dei serbatoi accumula aria e cominciano a scattare. Ma ti spiego tutto Sandro. Allora c'è la valvola di sicurezza, quando va al massimo a un certo punto cosa succede? Si mette a volte delle granelline nella roba, guarda è una cosa, c'è un tappino, c'è un coso in gomma sopra, mi un tappo in gomma c'è un dado o un cacciavite, devi volare il dado ottenendo un cacciavite e quello ti regola la pressione. In poche parole cosa succede? Che questa cosa si incanta, questa valvola, e allora cosa succede? C'è l'altra valvola, c'è la valvola di sicurezza, però quella di sicurezza va proprio quando va a fondo e fa il moto forte e sta sempre così in continuazione, capito? Perché non scatta la prima valvola che deve scattare, quella che scarica, se tu mi dici poi che scarica ti copri dove quella valvola. Ho capito, quindi in effetti diciamo c'è qualcosa che non funge diciamo nella valvola a prescindere dal manometro, ma nell'accumulo. Allora c'ha due valvole, la prima valvola è quella che va regolata e deve scattare, per esempio tu la puoi regolare a 6, a 8, a 10, a quanto vuoi tu, capito? Se io te la sparo a 9 e mezzo, io per esempio l'ho fatta io qualche valvola e me l'ho portata a 10 nel Mercedes, perché così mi dà più aria e mi solleva. invece di essere a palette è pneumatico, e allora secondo il carico, che esageravo un po' il carico, non ce la faceva sollevare, allora gliel'ho aumentato un pochettino io, però a volte si mette sporchissime le cose quando non cambiano mai i filtri, l'essiccatore si chiama un filtro essiccatore, a volte uno lo trascura, non glielo cambia, allora devi far sporcare questa valvola qua, questa valvola si sporca e non scatta, si blocca, e allora quando si blocca c'è l'altra che sarà al massimo quasi a 10 o quanto è, quasi a 12, quasi a 11 è tarata l'altra valvola, che va fuori al massimo di mano, e poi scatta quella di una valvola, è più grossa, una valvola fatta diversamente, è una valvola di sicurezza quella lì, e parte quella lì, e fa sempre tum, fa il rumore che scatta quella lì, capite, fa una trombetta quando parte, quella è quella di sicurezza. Sì, capo, beh, in effetti è quello, diciamo, va bene, ok, va bene già. Allora, sto seguendo le Scania adesso. Ehi, vediamo le Scania. Ehi, qualche volta capita. Qualche volta capita anche quello, tutto lì. Allora, quello che stavo dicendo adesso, era un po' adesso che non mi sentivo, ho detto anche a Giampaolo l'altro giorno, l'ho sentito, ho detto, stamattina l'ho vista Gianluca, non l'ho sentito più, stamattina l'ho vista, lo sono andato in macchina, sono sceso a produttore a fare il pieno, perché domani devo andare fuori, ho fatto il pieno del gas, poi sono andato a rifare la benzina in quel posto dove tu sai che si paga di meno, e invece la salvata. Ma qui è produttore? E alla Cona. Ah, ho capito. Ma guarda che c'è coso, c'è l'ACI, perché a 1 è 1, 3, 36, E Cigia? Sì. A 1, 5 qualche cosa. Ah, ci dava tutti due. Praticamente se tu guardi il prezzo che c'è all'esterno del cartellone, è così. Se poi tu vai nella colonnina, c'è scritto 1, 5 qualche cosa. No, già, l'ho fatta, quando l'ho fatta? Mi sembra che l'ho fatta ieri. Non mi ricordo esattamente. Comunque questi giorni, no, 1.336. Allora, quello in automatico, però devi inserire i soldi, che è quello 24 su 24, però che non hai punti, diciamo, e così via. Ah, io l'ho messa nella colonia normale. Capito, no, perché ogni tanto io mi faccio i giri, no? E vediamo un pochettino. Va bene, riprendici. Così chiudo, no, poi ero curioso perché mi hai fatto quella domanda di prima, ho detto, ma curioso, ho detto cosa c'entra il camion con lui, con Sandro, ma non sapevo cosa, con che cosa ti collegava, visto Sandro. Lo sapendo con chi sto modulando in questo momento? Stai modulando in questo momento? Ho il telefonino e c'è un programma che si chiama programma CB e tramite internet e moduli con tutta Italia e sto parlando con la campagna in questo momento. Aspetta, siamo rimasti pochi, pochissimi, siamo in 2, 3, 4 anzi, insomma, più nelle auto. Vedi, c'è detto là, sto modulando con questo in campagna, dice che il CB sta sparendo, sono massimo in campagna 3 o 4, non di più. Ma tramite computer stai ascoltando tu? No, tramite il telefonino c'è questo programma CB e ti colleghi con tutto il mondo. Adesso ne ho trovato due o tre dalla Campania che ormai non c'hanno più l'apparato perché c'è che le persone non lo stanno più utilizzando. Ho scoperto questo programma che ho trovato anch'io scaricato gratuitamente e poi parli con l'America, Spagna, con tutto il mondo tramite internet. Aspetta un attimino, questa non l'ho capita, questa è interessante. Ciao, dov'è? Aspetta un attimo che mando il messaggio al tipo, Ah, ho capito, tramite messaggio, tutto lì. Ok. Non ho capito, Gigi, cosa mi hai detto? Io non capivo cosa si poteva collegare questa cosa, dai, del fatto dello Scania, così cosa si poteva situazione qua, con questo mezzo qui, e quindi abbiamo avuto difficoltà, diciamo, e così via, anche, diciamo, se si poteva, diciamo, risolvere, adesso domani si risolverà tramite un meccanico qualcosa, però inizialmente ho detto prova a chiedere a Gigino che cosa poteva essere. Se tu mi dici il tipo della macchina, che io ti dico Don Femmi, quella valvola, capito? Ti dico Don, solo che meglio non faccia la pulizia perché va lavata bene con benzina e cose, questi gommini nuovi, una volta c'è una sfera, c'è una molla dentro, se c'è per dei piedi è un casino. Ciao, è una cosa tipo un bicchiere più piccolo, un bicchierino di quelli di... quello che quei bicchieri metti, quelle tazze le mettevi in freezer, ti ricordi? Un bicchierino del genere, quelli che si versava, ricordo, dentro al melone, alla rosera, ma veramente. Ci sono, Capone. Ok, registrato, Antone. Allora, questo è lo Scania, 400. 143. Esatto. Beh, non c'è da 43, tu li solleva appena la cabina, guarda sopra vicino alla come si chiama, la turbina, che c'è quella valvola lì. Però se non meglio lo fai fare da un meccanico, che adesso il meglio lo faccia il meccanico, che dice che lo può fare carta, fratelli carta, produttore, o se no aiutiamo a dire la camionabile, come c'è cosa della Monte, ha fatto cosa della Montetta, non si dice, Pian del Sorno, così si chiama, Procureale c'è un'officina bella attrezzata lì, e fratelli carta volontari non ci sono più lì, qua sono andati in pensione, vai tutti in pensione, sono andato anche io, mi serviva, mi stavo parlando il fiuto là, l'avessi spaccato praticamente, e visto che hanno fatto il fiuto là, in pratica dove si è spaccato, stavo parlando una cosa della lingua e non riesco più, sono tutti in pensione, ho chiesto anche lì a fianco la cosa del ferro, e mi ha detto no, sono andato in pensione. Positivo, allora c'è Sandro che può fare quel lavoro lì, ho detto a Tronco Reale, c'è una grossa officina, ma enorme, è per camion, e quelli lo possono fare perché te la vai lì e te la smontano la volta e te la fanno e te la revisionano, non è neanche molto la spesa per quella valvola lì, sono non un meccanico qualunque, un meccanico vai lì te la fanno, questo che ti sto dicendo io, te lo invecco, una grossa officina che hanno aperto a Tronco Reale. Ok, vabbè, ma qua questo si tratta giù a Olbia oggi, giù a Olbia, no, ma diciamo sappiamo già chi, diciamo, rivolgersi, perché adesso riguardo i tagliandi, Candidorio e così via, diciamo, si è portato sempre, diciamo, da questo qua tutoria, adesso era giusto un accenno più che altro per vedere un po' che cosa poteva essere tutto lì. Positivo, Olbia, già c'è Olbia c'è, la zona industriale vicino alla Palmera c'è, capito, c'è lì, e poi c'è giù in fondo, se no lo Scania, noi ce li abbiamo, gli Scania li portiamo a Cotugno. Ok, va bene, sentiamo Antonello con chi è in collegamento, Antonello. Ci sono, sto parlando con la campagna, adesso con la Puglia. Invece a parlare con padre Pio. Ti avrebbe avuto cellulare, sì. Antonello, scusami un attimino. Allora, tu sei col telefonino, tu hai scaricato un programma via internet, ma a parlare parli tramite messaggio però. Assolutamente no. Tu parli con la tua voce, c'è nel telefonino, no? Quando scarichi il programma c'è una schermata tutta nera con un pallino, siccome c'ho il touch screen schiaccio col dito come stia schiacciando la portante, io parlo, poi togli il dito, risenti la tua voce che va spedita a chi è in linea, e questo programma, diciamo, questo sito si chiama cpchat.net, scacci questo programma e c'è tutta la tutto il programma, in poche parole, digiti 10 km, raggiungi il raggio 10 km, 10, 20, 200, 1000, 3000 km e poi dice tutto il continente, schiacci quello e lo ti metti a ricerca di chi sta modulando. Tu puoi andare in Francia, Spagna, Inghilterra, America. Sto parlando con la Campania. Ho capito, però un'altra cosa, questo lo scarichi al computer. Col telefonino tu devi avere il cavetto che collega il telefonino al computer. No, assolutamente no, io proprio il computer non ce l'ho, c'ho il telefonino, punto e co. Poi posso fare un scaricato, quanto messaggio, com'è? Via col telefonino, via internet dal telefonino. Esatto, sì. Tramite il telefonino mi collega a internet, io faccio altro che mettere CP, c'è scritto, schiaccio nel programma il telefonino CP, automaticamente si collega su internet e ti schiacci scanner e lui ti ricerca le persone che stanno modulando in tutto il mondo, perché devi selezionare la zona in cui vuoi modulare e poi lui ti mette in contatto automaticamente. Infatti non hai sentito il tipo parlando, che ho schiacciato la portante per fartelo sentire. Sì, capa. Va bene, dai, una cosa bellina, diciamo, dai. Va bene, dai, signori, io ne approfitto a salutarvi e ce la sentiamo tutte le prossimine. Ciao Gigi, ciao Gianni, ciao Antonello, e poi c'era che ogni tanto non mi viene in mente il nominativo, comunque mi ha già capito. Riprendi Gigi, ce la risentiamo alle prossime. Ciao, ciao, invece era Bombolo Antonio e Gianni Doppio Romo e Antonello da Ussi. Tutti qua siamo, Sandro, riprendi Gianni. Ciao Sandro, mi hai sentito e contiamo dopo la domanda, ci sentiamo, avanti. Saluto Alessandro, dai. Mi hai sentito e buon trabatto per domani. Ma se volevo chiedere una cosa o lui, no, forse c'è Antonello, avanti Antonello, dopo li chiedo a lui. Dimmi. Saluta Sandro. Ciao Sandro, dai, ci sentiamo tutto, va bene, a domani. Ciao, ok, ma voi non ne avete effetto. Come? Sto dicendo a Luigi. Sì, Antonio, noi non abbiamo effetto, non ne avete. Negativo, fiata niente noi. Ma come mai? Perché dice il specie pari mio che la Fiat e il Beco e quelle lì non servono, sono macchine che non le abbiamo avute in passato, ma sono rogne, non vanno buono, sono macchine che vanno bene, non sono a parità di uno Scania, di un Volvo, di un Mercedes, no, assolutamente no. Lo Scania è una macchina, la fanno bene. No, in Belgio, Germania l'ha fatto. Germania è il Mercedes dello Scania, non so se lo fanno in Germania, pure comunque non è roba italiana, non è roba italiana, e famoso, diciamo che i chilometri che ti fa un Mercedes, uno Scania, un Iveco te ne può fare, neanche la metà te riesce a farne, dei chilometri che fa uno Scania. Ma adesso però sono cambiati i motori, stanno andando molto con gli altri anche. No, assolutamente, sono sempre dei bidoni, Ah, sta risa molto percata. Già. Gente che l'ha usata dice che c'è un bel forza qui in campo. Gente che non ha usato altro il camion, capito? Che ha usato solamente il Fiat. Ma il principale mio Fiat ne ha avuto una finita, una volta ne ha avuto 87 di trattore, ve ne ho tutti i in via. 87, meno in via lui, no? 87 in via. Scappa. E però adesso stanno sempre più. Stanno sempre più cambiando, stanno sempre migliorando. facendo un camion più buono. Sì, da, prendi un Fiat, no? Tu prendi un Fiat, è un Impreco, come lo vuoi chiamare, no? E io ho visto i contratti nuovi e sono usciti le Eurostar, gli Eurostar nuovi, dopo un anno, e l'automato rugginoso, tutto un ammasso di ruggine da tutte le parti. E lo Scania, anche lo Scania che ci aveva già 10 anni, non ci aveva una punta di ruggine da nessuna parte. Io ho avuto Scania, avevo tenuto che ci aveva 10 anni, ce l'avevo io, e non ci aveva una punta di ruggine da nessuna parte. Allora lì, da nessuna parte c'era una punta di ruggine. Tu prendi un Fiat, da noi i Fiat eravamo ogni anno, li cambiamo, anche la cabina nuova gliela mettono una volta, gliela cambiate le cabine. Poi manco un anno le fate e gliela mettono senza cabina, tu frate. Sì, ma adesso le stavo tutte modificando, non sono più materiali di allora. Adesso sono usciti anche i cosi, e lì quelli strani, come cavolo si chiamano? Stanno sempre migliorando, giustamente, perché una casa come l'Iveco non è che può tirarsi indietro, no? Ho visto che stanno sempre più migliorando, cioè ho guardato così mio, anche su internet, ho chiesto informazioni e cose, sono sempre migliori, sono. No, assolutamente, stai sbagliando tutto. Stai sbagliando tutto, tu stai dicendo lo Stralis. No, Stralis no. Non sono macchine da lavoro. Non sono robuste, no, non sono proprio come può essere uno Scania o un Volvo. No, le migliori assolute sono Scania, Volvo e Mercedes. E boh, il migliore assoluto. Non lo so, magari sento il parere di un altro che è diverso, non lo so, ma comunque lei avrà una sua macchina buona, prima o poi usciranno. Così Dio, andate a portare l'alzata e il figlio di lui si è contente, che si via, no, lo Scania, quelli a picchi che c'eravamo noi, mai sarebbe a temperatura dell'acqua, mai salita, poi sono, è tutto un acciaio diverso, lo Scania, no? È una cosa diversa, non c'è paragone, Fiat era problemi d'aria, di sempre, per dover essere mezz'ora in moto, perché se non si spegneva era necessaria, Fiat è proprio, non ne vuole manco di regalo, nulla ne vuole vedere, più c'è fare mio, a parte non piacciono neanche a noi, a me personalmente li ho guidati, ho guidato un po' di tutto, e niente, come lo Scania secondo me non ce n'è altro, l'altro uno deve fare, lavorarci più di 30 anni, perché ci lavoro più di 30 anni sopra questi mizi, e li ho provati tutti, e ne ho avuto di tutti canti di manini, li ho provati tutti. E il migliore assoluto è lo Scania, non ce n'è altro. Chiaro. Il Mercedes come sono? Va bene, no? Il Mercedes va bene, vedi, il Mercedes tu devi entrare in un posto un po'. Quando c'è un po' di fanghiglia di cose, di tutti, quando andiamo alla porta della Gilla, ecco. Se mi dice così, riesce a uscire in mezzo al terreno, riesce a uscire meglio del Mercedes, dello Scania. E per esempio un Iveco, per esempio lo Stralis, che lo Stralis di questi nuovi che stanno facendo, per esempio non fa per entrare in cassa, non fanno. Anche se fai un viaggio, il secondo viaggio hai facciato tutto, capito, e non fa. Non li puoi togliere da sopra l'asfalto, capito? Se li togli da sopra l'asfalto sono fregati. Scappa. Infatti non li usano, no, il vecchio non li usa, usano più i cosi, usano gli Astra, come sono molto più robusti, sono. Ma ho visto che quel Renault, cioè, vanno bene, no? Come sono. Ho visto anche il Renault di camion. Non mi sono mai piaciuto lo stesso. Non è un camion che mi piace il Renault. No. Non mi è mai piaciuto il Renault. Ripeto, poi l'ho vedo quando c'è ghiaccio, quando c'è neve, i Fiat e cose, tutti i primi, no? Tu prendi a me col Mercedes, io sono passato a Foresta a Burgo, sono quelle vite la 131 e tutti bloccati in Chiviera, e io da 180 la Foresta a Burgo, sono cantato dalla montagna, sono vado da sopra la montagna, la mia ha fatto un po' di neve, e loro sono bloccati tutti a Campeda, e sono arrivati, io sono uscito per la 131, da mezza la neve, io sono uscito da mezza la neve, chissà che passava, era appena un filo di tutto di cosa, che è passato pure il spazzaneve, e tutti i fermi non camminavano. E io sono comprato la montagna che non passavamo con Gesù Cristo in chi. Staff, buono sono. Staff non mi piacciono lo stesso, no, non sono buoni. Si lamentano tutti, non vanno bene. Problemi si sfacciano molto facilmente. Staff. Oh, non andano bene, dai. No, non vanno bene. Poi noi abbiamo provato. Abbiamo già contattato altri, se per esempio un Fiat, uno dei secoli ci ha fatti 400.000 km, devi fargli girare il motore. E tu guarda, io con il Mercedes mio ne ho 600.000 km. Non c'è nessun impreco che ci arriva a 600.000 km. E io ne ho 600.000 e sono convinto che con la macchina sto toccando fa altre 600.000. Capito, invece del vecchio no, il vecchio ho visto a 400.000 e devo iniziare a buttare giù il motore. E comunque dai, ma bene o male di forza già ne hanno pure quelle, dai, pure se sono un pochettino più delicate. Ma no, non sono mai riusciti a farle potenti, non ci sono mai riusciti. Adesso il mio è un 440, il Mercedes, per stare a parità mi potrebbe dare il fastidio del 500, però il 480 non vi passa in attacco. Carico, lo stesso carico, Mercedes e Scania se ne vanno dal Fiat al Fiat, con meno potenza del Fiat, se ne vanno. Io mi rimango molto tenuto che sei 440, 480 dei Fiat, delle strade, carità mi rimango ben cosa sento come niente, mi rimasto, e poi sono un 4.40 io. Ciappa, speriamo che le facciano più buone. Io la metà di vado tranquillo nella scuderia che sono io, se non entrano di Fiat, manca il regalo nei piglia. Ciappa. Avanti già. Tutti i vedi fumato, cosa ti riesce a fare il camionista? Ma no, ho chiesto un pochettino così a vedere. Comunque Gigi, non so se sentito oggi nel Cagliaritano c'era la festa dei camionisti, Festa dei camionisti, non dei camionisti, c'era un raduno, c'è stato a Malacaragone, sabato scorso. Pagava. No, camionisti perché hanno intervistato uno e ha detto che praticamente loro hanno fatto questo raduno, questa festa qua, una cena, non so, un pranzo, non so cosa hanno fatto, perché c'è che vogliono ripagarsi del lavoro che fanno, che è duro, eccetera, eccetera, e hanno deciso di fare questo incontro tra di loro. No, quella è un'altra cosa, no, io sono c'era stato un raduno del camion, c'è stato a Malacca, a Caragone. Infatti io stamattina oggi mi sono fermato alla Tamu e subito Luca, guarda, non sono sempre io non sono io che sono interessato a tutti, io ho detto, tu dici, ma io organizzavo qua un cosa, un stand, qualcosa della trucking, non so che cosa, dove faccio portare quella roba, non c'entro nulla io in quelle cose, ma io ho visto le buste che hai lasciato tu qua, quelle erano altre cose. Ho detto, erano altre cose, non c'entrano, tutte c'entrano, ma così che ieri c'era quello che per l'antenna, questo scoiattolo che ha costruito questa antenna e ne ha mandato una a questo Cristian, poi ho chiesto, questo Cristian è uno che ha un baracchino molto quasi, ma uno normale, di che non conosce nessuno, e lui ha dato questa, per provare questa antenna, e costruisce antenne queste qua per le vetture, per il camion. A me come la so che fa? Certo che va bene, ma io che Cristiano dove fa? Marco con la tappuccia rimane a sera. Ieri sera faccio aprire il coso, c'era appena 100, faccio aprire il computer, il sito mio, guardare, mica mi dà chi c'ho Cristiano, chi c'ho coso, chi c'ho scoiattolo. E tu che cosa ha fatto che sei arrivato? gestione del conto mio, cioè già facciamo vedere queste antenne che era montata nel camion, questa cosa con la presa d'aria, questa antenna, ma la coso largo, non so come. La presa d'aria? E che cosa deve raffreddare? Aspettare. Appagare, con il turbo, Adesso se stavo parlando io un bel po' a baracchino, a propagazione. E ogni tanto adesso c'è qualche festicciola, e mi state svegliando. Sì. Ehi, vabbè. Ehi, bisogna fare qualcosa, bisogna farla. D'altronde, il lavoro è duro, un po' di dolce ci vuole, mezzo alla mano ci vuole anche il dolce. Perché, ma non è che guarda, c'è il computer comunque che Gigi Volcano sta organizzando questa cosa, c'è il computer, l'ha messa, qualcuno l'ha messa, che Gigi Volcano sta organizzando questo pranzo, questa cosa. A pagare, lo vanno fatti, Gigi? A modo, beh. Vabbè, comunque. Scusate, ma non prendiamo un po' di fresco fuori sotto la veranda di giù, tanto io guardo per le gianne, vado a prendere un po' di fresco, poi mi curico domani mattina, me la so presto. Voce sì, dimmi Gigi, adesso vado a prendere un po' di fresco sotto la veranda e poi mi curico perché me la so presto domani mattina. Cavaga, vabbè, buon trabacco per domani, dai, ci vediamo su strada, ci chiamiamo, ok. Maracchino, mo parla in modo a mezzo 45, già c'è gente che ti ascolta, là. Vaga, tutto moce permettendo. Sì, no, lasciami modulare, che devo modulare qua. Ecco perché se c'è strada, ci sono macchinette, hai capito? Quello lì è interessante. Ma non lo sai cosa c'è, dai. Lo sai cosa c'è, capito? Avagava. Andave, avanti, andiamo. Scappa, se sta... Stai andando lui. Dai, chiudo le trasmissioni, dai, che anche troppo parlato stasera. Faccia lui. Dai, ce la risentiamo, scappa. Avanti già. Dai, sentiamo lui di nuovo. Anche a domani mi devo alzare presto perché devo partire, quindi devo alzarmi un po' presto. Vuoi che si va? Sì, a me mi va bene anche a Tartamone. Io guardo, basta che sia al mare e farmi il bagno, anche per il Tartamone mi accontento, ma quella donna non l'ho vista, mi piacerebbe vederla. No, andate, basta. È inutile, magari da tanto tempo ce l'hai in programma, No. A dirti, buco. Infatti. Cavallava. Però tutta che l'albergo non posso usare di nuovo, va. Assolutamente no. Pure io vorrei, avrei un sogno da fare, di andare a Cagliari, andare allo stadio, guardando la partita e tornare a Cagliari. Non è una cosa possibile, anche più lungo ma di Cagliari, se vuoi ti faccio andare, se vuoi io ho un collega che è del club del Cagliari e organizzano queste cose, sono tesserate cose, organizzano questi viaggi al pullman. Allo stadio Sant'Elia, riguardo alla partita, poi doveva stare. Mi piacerebbe quello, a me non mi entusiasma molto, comunque ognuno ha le sue idee. Ho un mio collega che è proprio nel club del Cagliari. Allora, nella curva ultra. Organizzano il pullman da Porto Torre, si può fare tutto il giro, va a Sassari e cose, prende la gente, e poi andare a Cagliari. Mi piacerebbe, cioè, sarebbe una cosa che, una soddisfazione, se a me piace, quindi sarebbe una cosa bella. pacificamente, seguendo la partita e basta. Sì, sì, sì, no, non è una cosa che non si possa fare. Penso che con 30 euro te la capo. Sì, sì, sì. Non deve arrivare più male a Sant'Egliaio, dobbiamo fare l'uomo lo stadio. Sì, lo so, è da ora. Se Sant'Egliaio ci dà un bene, poi hai chiudito ancora, dove è Sant'Egliaio. Scappa. Perché non è più, hanno dovuto aggiungere, per essere regolamentare per la Serie A, hanno dovuto aggiungere altre tribune, hai capito? Ma sono di quelle tribune mobili. Posticcio proprio. Buona, ti saluto. Ti auguro una buona notte, ma trabacco per domani, io sto andando, che devo mettere a casa il bambino. Ragazza, vabbè, dai, buono, fai qualche foto sotto se passa lo stadio. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao.